qui m'avete, o mio geloso cielo, il più puro palpitar dell'anima. Or vedrete, fanciulla, quale poema è la parola amor. Qui causa di scherno azzurro spazio guardai profondo e ai prati colmi di viole pioveva allora il sole e folgorava dalla terra la mia fronte veniva una carezza viva un bacio gridai tra le nicchie dei santi e della Vergine una Madonna e al sordo orecchio un tremulo vegliardo in vano chiede a pane e in val stende alla mano arcai degli abituri lucio un uomo Dio scagliava e contro gli uomini le lacrime dei figli. In cotanta miseria la patrizia prove che fa sull'occhio vostro esprime umana